veloce. Alle, in questo luogo 40 anni fa. So che c'è stata una strage perché ho letto adesso un volantino che stanno facendo delle opere, però sinceramente non lo so esattamente cosa è successo. Però è la strage dove è stata? Non lo so. In piazza Voltaire. Ok, ma in piazza, in un palazzo? Non lo so. Okay. Quindi se ti chiedo più o meno se hai idee dei responsabili? Non ho idea. Tu studi? Archeologia. Alle superiori ti ricordi se ne hai parlato? Non penso. Se ti dico Pietro Valpreda, cosa ti dice? Se ti dico Giuseppe Pinelli, cosa ti dice? Se ti dico Delfo Zorzi. Grazie.